sperma negli ovuli. Solidi, solidi, solidi anonimi noi. Gira sui gomiti, scratch ed evolvi di boy. Spruzza i tuoi codici, rimedi e sfoni ti vuoi. Farti sentire ma lo fai solo se coveri. Inzitti non sono se suoni e solo citofoni tuoi. Genitori vogliono che ti ricoveri. Rap non porta loro in poi si resta sempre poveri. Man, corrada, vedo oltre dove tu vedi. Questa città è morta sotto i miei piedi. Puzza di fogna nella California. Tra queste teste vuote c'è anche gente che sogna. E la vita è la storia che si scrive indelebile. Mica un tratto di matita qua. Tutti fighetti o figli di papà o tutti attinenti alla moda che va. Allora Tramaman spinge più Radaman. Fuoco e fiamme su questa città. Messi soli qui. Fuoco e fiamme su questa città. Questa città rime dalla street. Devo trovare chi le capirà. Chi le capirà. Mille rime, passi e fine. Sui muri della città. Questa città senza fine, smazzo stile. Dalle strade della mia città. La mia città abbraccia Morfeo, sta a riposo. Ma debba si fonde un potenziale inesploso. Fomenta un incendio doloso per i vostri cool. Dangerous, supereremo questi giorni scuri. Malattia che t'assale, apparata auricolare cerebrale. Ti infetto ogni cellula staminale. Dalla strada al locale, pompa il suono più robusto. Sogno una folla strafatta come a busto. Questa è la prassi, il nostro secondo round. Attraverso l'antica zanga che mi fa da background. Inietto la mia dose di fisso, zero all'ora. E fa tuffotti e costa anche meno delle Marlboro. Attentiamo al pubblico, decoro via tutto. Pure il break, perdi la carreggiata se sul guardrail. Questo non solo che ti arriva e non ha rivale. Che ti rimette a posto l'assetto, la visuale iconoclasta. Finché la nostra ora non vorrà scoccare. La mia città troppo credito da bruciare. Allora 07 Messina va in fiamme più su. Di due spanne più su, drink e canne. Messi soli qui. Fuoco e fiamme su questa città. Questa città rime dalla street. Devo trovare chi le capirà. Chi le capirà. Mille rime, passi e fine. Sui muri della città. Questa città senza fine, smazzo stile. Dalle strade della mia città. Noi siamo pronti per questo. Voi siete pronti per questo. Noi siamo pronti per questo. Voi siete pronti per questo. Siamo pronti per questo. Siete pronti per questo. Siamo pronti. Siete pronti. Siamo pronti per questo. Voi siete pronti per questo. Io sono pronto per questo. È tempo che sono pronto. Tempo che tengo sto tempo. Quando giro versa alza la sera. Gli occhi addosso come malena. Tutti rapper d'arena. Perde chi c'ha la madre tuo scenari. Nego sta scena ogni rima fa pena. Prendi la penna, incendi il sistema. Prendi da trame trema. R.A.D.A. in connessione Calabro Sicula. Con me Nino e Peppe Cirino. Ida classifica subdoli come Caligola. Sonori amplessi. Non si concede grazia come fatto con buon prezzo. Primo in catalessi apocalisse che aspetto. Mirando il mare che bagna le sponde dello stretto. Scommetto la posse alta bookmaker. Oggi come ieri sputo rime servile Big Maker. Mentre già tu dormi sono in giro con gli spray. Mentre se nei sogni faccio giri di freestyle. Storie che tu non saprai mai. Saprai mai mai. Poi mano il mai. Fuori dal tuo mondo un altro mondo che non sai. Siamo le fiamme sotto cui brucerai. Non mentiamo mai. Non sai mai mai. Poi mano il mai. Più ratti che persone. Non fatti ma parole. Con tanti dove dove. Se canti senza un nome. Tu fatti promozione. Se spacchi sul campione. Missione. Fatti il rap il culo di questa nazione. Aspettando il sole. Spliff che mi cremo. Lettere d'amore scritte su un treno. Voglia di fuggire e non tornare più. Rispetto agli amici ed odio alle divise. Rosso attorno alle pupille. Se schiariamo le tonsille. Bastoniamo più di Bad e Terence Hill. Trama più rada. Bombe in questa notte insonne. In strada. Mentre Messina già dorme.